sorriso è linfa per il mio corpo. Le tue parole sono ossigeno per la mia mente. Fronte su fronte, naso con naso, e poi quel bacio. Una tua carezza è una scossa per il mio cuore. Il tuo abbraccio mi dà protezione. Fronte su fronte, naso con naso, e poi quel bacio.